L'avvertimento è una bella cosa e a volte importante. Se d'inverno qualcuno ci fa presente che in un curva C è il ghiaccio e che molti sono usciti fuori strada, gli siamo più che riconoscenti. Se il dottore ci avverte che un certo alimento può procurarci la morte, siamo ben contenti di ricevere un tale avvertimento. Proprio perché un avvertimento è importante e indispensabile prenderne in esame, uno che si trova nella parola di Dio, dove troviamo scritto di non ingannarci. Ingannarsi è una delle cose più consuete perché tutti credevano giusta una cosa che poi si è rivelata sbagliata. Oppure abbiamo fatto una spesa convinti di aver fatto un bell'acquisto ma che poi non corrispondeva alle nostre necessità. Così è anche nel campo spirituale. Abbiamo tutti le nostre idee sul bene e sul male. Su Dio, sulle persone, ma non vorremmo mai renderci conto di esserci ingannati. Così, quando la parola di Dio ci avverte di non ingannarci, o che un certo comportamento è ingannevole, dobbiamo ascoltare con molta attenzione se in seguito non vogliamo piangere o avere un eterno rimorso. Il primo di questi avvertimenti lo troviamo nella lettera ai Galati, scritta di Paolo. Non vi ingannate. Dio non si può beffare. Perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Galati 6, 7 a 8. La portata del pensiero umano è una cosa sorprendente, ma nel profondo del suo cuore egli è illogico, assurdo e insensato. Nella vita siamo coscienti che se seminiamo del grano nasce del grano e non dell'orzo, come può? Allora pensare l'uomo che se si comporta male ne riceverà del bene, pensare di ricevere ciò che non si è seminato significa volersi beffare di Dio, cioè pretendere da lui un atteggiamento che non corrisponde alla sua natura. Se la terra non può produrre qualcosa di diverso dalla natura del seme che vi è stato seminato, così Dio non può premiare chi fa il male. Proprio perché non ci si può beffare di Dio, occorre perseverare nel fare del bene tenendo presente che non sempre il risultato del bene si vede immediatamente, come certi semi che producono la pianta dopo molto tempo. Un altro avvertimento di Dio lo troviamo nella lettera ai Corinzi. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. 1 Corinzi 6, 9, 11. Alcuni credenti della città di Corinto avevano creduto in Cristo, ma la loro vita non era cambiata. È molto difficile, se non impossibile, stabilire se una persona ha creduto veramente. Perciò Paolo non entra in merito alla qualità delle fede dei Corinzi, ma ricorda loro che non dovevano ingannarsi pensando di poter fare quello che volevano ed essere salvati. Questo errore circola anche in alcuni ambienti cristiani dove si ritiene che una volta salvati uno è libero di vivere come gli pare. Questo è un inganno, un forte inganno. Paolo avverte di non cadere in questo inganno, perché chi vive nel peccato, chi è fornicatore, omosessuale, avaro e così via, non entrerà nel regno di Dio. È inutile, ma proprio inutile, avere una convinzione diversa. Un altro inganno molto comune è ritenere di non essere influenzabili. L'Apostolo Paolo lo dice molto chiaramente: non vi ingannate. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. 1 Corinzi 15. Oggi i giovani danno poca importanza alle compagnie che frequentano, purché siano allegre. Essi non guardano il lato morale. Spesso i giovani di famiglia cristiana, frequentandoli, pensano di poter essere d'aiuto ai loro coetanei privi di tanti scrupoli, ma si ingannano. Una ragazza chiese un giorno a suo padre il permesso di frequentare una compagnia nota per la sua leggerezza. «No, figlia mia, meno», disse il padre, «meno, non voglio meno». «Perché? Non hai fiducia in me? Mi credi senza carattere e pensi che mi lascerò trascinare?» Trattino, rispose la ragazza. Il padre non rispose, ma avvicinatosi al focolare prese un pezzo di legno carbonizzato e lo tese alla figlia. «Prendilo», le disse «meno, non ti brucerà». La fanciulla prese il tizzone spento nelle sue mani delicate e bianche, poi, vedendo che lo anneriva, lo buttò via con sdegno. «Figlia mia», disse il padre, «meno, anche quando non brucia, annerisce sempre. Dobbiamo prendere sul serio l'ammonimento che cattive compagnie corrompono buoni costumi, perché se ci inganniamo pensando diversamente ne porteremo le conseguenze. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi». 1 Giovanni 1, 8-10. Sembra assurdo che ci siano delle persone convinte di essere senza peccato, eppure ho avuto l'occasione di conoscerne alcune. Davanti al messaggio del Vangelo che dichiara la perdizione della razza umana, alcuni, pur di non accettare la giusta condanna di Dio, si sono ritenuti senza peccato. Queste persone ingannavano se stesse e, pur di non ammettere la verità, hanno preferito raccontarsela. Eppure basta ben poco per entrare in cielo. È sufficiente confessare le proprie colpe. Altro inganno, non indifferente, è l'essere soddisfatti di udire la parola di Dio. E siate facitori della parola, e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso. E poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Giacomo 1, 22-25. Le persone che aderiscono ad una religione hanno un difetto che pagano a caro prezzo, cono appagate di appartenere a quella religione. Nell'ambito del cattolicesimo e del protestantesimo queste persone hanno occasione di udire la parola di Dio, ma per molti di esse rimane solo una forma che fa parte della funzione religiosa. La parola di Dio, come si dice, passa da un orecchio ad un altro, non modifica la vita di coloro che la ascoltano, non ha autorità di cambiare i loro pensieri e la loro condotta, e in questo modo essi si ingannano. Questo è un serio avvertimento che non può passare inosservato. Da notare che chi ode la parola di Dio e non la mette in pratica non inganna gli altri, e neppure Dio, ma solo se stesso. Il che vuol dire che la persona si illude di essere in regola con Dio, si illude di essere beata, ma in realtà è sotto il giudizio di Dio. Nel giorno del giudizio, benché si lamenterà di essere stata presente quando la parola di Dio veniva letta e spiegata, verificherà il suo tremendo ed orribile inganno. Oltre che avvertire i suoi lettori di non essere degli uditori che dimenticano, Giacomo mette in guardia di un altro pericolo. Se qualcuno fra voi pensa di essere religioso, ma non tiene a freno la sua lingua ingannando il suo cuore, la religione di quel tale è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Giacomo 1:26-27. Ancora una volta Giacomo impartisce un colpo a coloro che sono religiosi, cioè a coloro che hanno un rapporto serio con il divino. È vero che vi sono dei religiosi formalisti, non sinceri, ma qui Giacomo scrive alle 12 tribù sparse ovunque, cioè a tutti gli ebrei. Un discorso dunque che vale anche per i cristiani, perché la loro divinità, e quella degli ebrei, è la stessa. Dunque, scrive Giacomo, chi crede o pensa di avere un rapporto serio con Dio e dice cose che non corrispondono alla verità, inganna se stesso. Un avvertimento del genere dovrebbe scuotere la coscienza di ogni figlio di Dio. Quante volte si dicono cose, si consiglia, si ammaestra, si rimprovera e poi non mettiamo in pratica ciò che insegniamo. Ho ancora presente quella mamma che riprendeva sua figlia perché fumava e aveva la sigaretta accesa in mano. Oppure quei coniugi che sgridavano la figlia sposata perché non sapeva sopportare suo marito quando fra di loro vi era un continuo bisticcio. E, per questo che Giacomo spiega qual è il vero rapporto con Dio, occuparsi del prossimo nelle loro afflizioni. E essendo altrimenti, uno inganna se stesso. Infine, prendiamo in considerazione un monito di Gesù in merito a cose future. I discepoli, allora, lo interrogarono dicendo: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose e quale sarà il segno che queste cose stanno per compiersi?» Ed egli disse: «Guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è giunto. Non andate dunque dietro a loro». Luca 21:8. Secondo Gesù vi sarà un inganno pericolosissimo. Alcune persone si spacceranno per Cristo. Se prendiamo sul serio questo avvertimento, il pericolo ovviamente non verrà dagli atei, dai buddisti o musulmani, ma nell'ambito del cristianesimo. Consideriamo le tre religioni che si professano cristiane. Esse sono il cattolicesimo, il protestantesimo e gli ortodossi. Tra queste religioni solo il cattolicesimo professa che il Papa è il vicario di Cristo, il Santo Padre. E forse questo è un inganno, il più grande inganno religioso. Una cosa è certa, quando ci si inganna e ci ingannano, pensiamo sempre di essere nel giusto. E allora cerchiamo di verificare con la parola di Dio le nostre certezze per non ingannarci ed essere ingannati. Ottobre 2005. Ellero.